se chi ti ha già deluso doveva darti ancora il peggio di se. Servono forza e coraggio per contrastare l'entusiasmo di chi ti ammazza l'entusiasmo, e per resistere agli inganni, alla follia di questi anni, di troppi credo e pochi santi. Per dare voce ai tuoi pensieri, per imparare a stare in piedi e per amarsi più di ieri, di più, di più, di più. Per chi ama e non ha direzione, per chi aspetta il suo giorno di rivoluzione, per la vita che scegli di fare ci vuole forza, forza e coraggio, coraggio. Per chi la notte attraverserà il mare, per sbarcare in un giorno migliore, ci vogliono forza e coraggio. Che sono tutti allenatori, quando ti toccano i rigori, sempre servono forza e coraggio. Amarsi senza alcun appoggio, come hanno fatto Luca e Sergio, e avessi avuto quel coraggio quando il destino è stato avverso, di certo non ti avrei mai perso. Così, così, così. Per chi ama e non ha direzione, per chi aspetta il suo giorno di rivoluzione, qualunque vita tu scegli di fare ci vuole forza, forza e coraggio, coraggio. Per chi la notte attraverserà il mare, per sbarcare in un giorno migliore. La verità preziosa amica mia, dividiamoci il coraggio, che di forza avrai la mia. La verità preziosa amica mia, ci vuole forza, forza e coraggio, coraggio e coraggio. Coraggio, coraggio, e forza, forza e coraggio, coraggio e